visti da fuori. Andiamo in Germania, l'abbiamo detto, 0049, vediamo se risponde qualcuno. Tobias Piller, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Frankfurter Allgemeine Zeitung, soprattutto un giornalista, economista tedesco, noto in Italia, ti vediamo ovunque, non solo per il ruolo rilevante del tuo paese, ma per l'aspetto fortemente intrecciato all'economia che hanno sempre, sempre avuto le tue corrispondenze da qua. Ma vorremmo chiederti innanzitutto questa mattina, sorpreso dalla reazione italiana alla notizia che arriva dalla Germania, questo meno 0,2 del secondo trimestre per il vostro PIL? Non sono sorpreso, mi è creato qualche sorriso leggere Merkel kaputt su una pagina di giornale oggi. Lo prendo con un sorrisetto, certo c'è un po' la rivalsa, c'è qualche tedesco anche che si sente troppo sull'onda della crescita da un po' di tempo, ma dall'altro sì, al momento non è così che bisogna sentirsi in crisi. Quando torno in Germania invece penso che vivono un pochino su un altro pianeta, al momento quei tedeschi che hanno sempre mogognato, che erano sempre pessimisti, al momento si godono la vita, vivono in modo molto più ottimista e spendono, consumano anche perché c'è molta occupazione in Germania, c'è stata una crescita più forte che in Italia. Così, in quel senso, non per modo di rivalsa, ma semplicemente per metterci qualcosa in un quadro più grande. Bisogna dire che negli ultimi 6 anni, così quei anni della crisi, la Germania ha staccato l'Italia di 15% di punti percentuali nella crescita. Così, quindi mettiamo adesso in un contesto questi numeri, appunto, questo meno 0,2% in un trimestre. 0,2 vuol dire meno 0,2 da un PIL che è cresciuto di più che già oltre quel PIL che avevamo all'inizio della crisi, mentre l'Italia è sceso di 10% dall'inizio della crisi. E allora si prende con molto più tranquillità. Questo meno 0,2 quindi non ha gettato nel panico i tuoi connazionali oggi? No, nessuno. No. E questo Merkel kaputt che hai letto oggi su un quotidiano italiano? Si può capire in questa rivalsa, c'è chi pensa che la Merkel sia a dettare un'austerità, quando la Merkel dice che non lo siamo noi, sono i mercati. Certo, l'Italia al momento ha un record di debito e ha un record di interessi bassi, ma di solito queste due cose non vanno insieme, queste due cose sono solo nate grazie da un lato all'ancora di stabilità che è l'euro e dall'altro grazie a quella svolta nella politica sul debito che c'è stato dall'inizio della crisi, altrimenti se i mercati, così risparmiatori, investitori avessero ancora paura per il futuro dell'Italia o dell'euro, l'interesse per un titolo decennale sarebbe non 3% ma 7-8%, e così i conti sarebbero veramente in pericolo. Tobias Piller, tu hai parlato dell'euro definendolo ancora alla stabilità, quindi se fossimo ancora in zona lira, visto che all'euro si addebitano, oltre alla Merkel e all'euro si addebitano tutti i mali di questo paese, tu dal punto di vista economico pensi che la situazione sarebbe ancora e ben più grave? Ci sarebbe il pericolo di un vortice che andrebbe veramente a tirare giù prima paesi come Grecia e Italia, ma poi certamente anche il resto dell'Europa, perché se c'è il dubbio dell'aumento dell'inflazione, della svalutazione, poi prezzi che salgono, poi salari che un pochino si aumentano e di nuovo il giro in giù, certamente, ma la gente che deve prestare a un paese così dei soldi chiederebbe non 3% ma 10, 15, 18% per cento di interessi all'anno, e allora i conti esplodono. Ciampi, già ministro del Tesoro nel momento importante quando l'Italia è andato a entrare nell'Unione Monetaria, diceva senza l'euro finivamo come Argentina. Invece sai chi sta andando bene? Il Portogallo. Il PIL del secondo trimestre ha registrato un segno più 0,6%, quindi oltre le attese. Bisogna dire anche la Grecia conferma che ci siano segnali di uscita dalla recessione, se si pensa a questo calo del PIL, vero, registrato ieri, ma solo dello 0,2%, inferiore allo 0,5% che era stato previsto dagli analisti. Paesi che danno segnali in controtendenza, ma noi rimaniamo nel tuo di paese, rimaniamo nel tuo nuovo paese, cioè Germania e Italia. Ora, tu critichi spesso quello che vedi, naturalmente, ma il tuo giornale, essendo un giornale liberale conservatore, non risparmia mazzate comunque, e nonostante l'area d'appartenenza, a ogni tipo di governo. Quindi avete un atteggiamento indipendente. Questo va detto per chi non legge gli articoli in tedesco e pensa che tu sia, come dire, assoldato per venire a parlare di luci ed ombre solo degli italiani. Che atteggiamento avete? Come siete conosciuti in Germania come giornale? Da un lato la stampa in generale in Germania è molto più critica, perché di solito sono case editrici di editori puri, così non hanno altri interessi per i quali poi devono mettersi a cercare compromessi con politici, così sono più critici in generale. Il mio giornale ha questa fortuna di essere un giornale che è fondato e poi è stato così messo in una fondazione che garantisce semplicemente la libertà del giornale. In quel senso, finché guadagniamo i soldi, che abbastanza soldi per non aver bisogno di qualcuno che chiude un buco alla fine dell'anno, siamo anche assolutamente liberi a criticare. E qualche volta certamente si pensa che io fossi qui a fare il tifo per la Germania, tutt'altro, sono semplicemente osservatore, e io vengo col pensiero che in Germania si fanno la pelle della Merkel e del suo governo ogni giorno, e così un pochino di critica a questa visione critica me la posso permettere anche in Italia, ma non per dire Germania tutto bene, Italia tutto terribile, no? Tutt'altro. Germania grande critica ogni giorno di tutto quello che succede, e in Italia ha anche una visione leggermente critica, ma sempre con lo spirito di essere ospite. Ricordo il numero di telefono 800 24 00 24 per chi ci volesse segnalare anche piccole realtà locali e non solo macro realtà come Italia e Germania. Ora, volevamo capire come è cambiata l'Italia nei 20 anni più o meno in cui tu sei qua. Cosa ricordi del tuo primo giorno, delle tue prime inchieste? Cosa raccontavi allora e cosa ti trovi a raccontare adesso? È molto importante aver visto l'Italia in un arco di tempo più lungo, perché specialmente negli anni 90, ma anche nell'inizio degli anni 2000, ho visto un'Italia molto creativo. L'Italia fucina delle imprese, l'Italia che ha molto più imprenditorialità della Germania, e per questo anche in modo ammirevole aziende piccole che sono sul mercato mondiale, quando un'azienda della stessa misura in Germania stenta di esportare così in un altro paese europeo. Questo adesso mi aiuta anche a vedere tutto il potenziale dell'Italia e di un'Italia anche eventualmente riformata, perché io ho scritto anche che con delle riforme l'Italia è proprio il paese che potrebbe ripartire come un razzo, perché l'Italia ha un potenziale molto più grande di tanti altri paesi dell'Europa. Sono convinto che potrebbe essere il paese più ricco d'Europa, con tutto il potenziale che ha, basta usarlo. E questo al momento certamente è una domanda importante, se l'Italia riesce a ristrutturarsi, perché non è l'euro che ha creato il problema, ma insieme all'euro è arrivata la globalizzazione e che ha messo in dubbio, ha messo sotto concorrenza, sotto competizione molte di queste cose che c'erano prima. E che si davano certo per assodate. A proposito di competizione e mancata competizione, l'Italia potrebbe partire come un razzo, accantonando i razzi. Pensiamo agli aerei, no? Sì, è sempre, ogni giorno si scrive una pagina diversa delle vicende all'Italia. Lufthansa di che salute gode? Cosa sta facendo? A Lufthansa al momento non sta così nuotando nell'oro, ma al momento si batte egregiamente in un mercato molto diverso, ma vede la grande concorrenza per esempio delle linee del Golfo come Emirates e come Etihad. Certo, vent'anni fa dicevano quelli dell'Italia: vedete, noi siamo grandi come Lufthansa, li batteremo. Nel frattempo adesso Lufthansa ha fatto tanti programmi di tagli, di ristrutturazioni, e adesso al momento sono tanti imprenditori, tanti manager italiani che prendono la mattina l'aereo da Napoli, da Bologna, da Torino verso Monaco e Francoforte, e da lì prendono altri aerei che portano verso il mondo. Tu l'hai mai preso questo aereo, Lufthansa, per Francoforte? Immagino un sacco di volte. Allora ti chiedo, Tobias, quando si è all'imbarco, no? Voi tedeschi chiamate il personale di bordo, si piazza lì al check-in, chiama, e che consiglio dà? Chi viene imbarcato prima? Cioè si fa la fila e si entra a caso? O vengono imbarcati a file, a numeri? No, prima i clienti business, poi le ultime file, poi quelli davanti, così un po' in quel modo che non quello della fila 5 impedisce l'accesso a chi deve ancora andare in fila 30, ma mi sembra che questo sia adesso standard anche in Alitalia. Purtroppo che... sì. Sai perché ti dico purtroppo sì? Non era una domanda retorica questa, perché tra le segnalazioni che riceviamo in questi giorni, ci scrivono in continuazione, qui non solo con l'SMS ma anche con le email a spunti di vista @radio24.it, ci segnalano che ancora non è stato risolto il problema dell'imbarco che fa impazzire. Negli anni 70 venivano imbarcate in media 20 persone al minuto, oggi sono scese a 9. E di tutte le situazioni, ci ricorda Repubblica, anzi La Stampa di qualche tempo fa, di tutte le situazioni che rendono ormai sgradevole viaggiare in aereo, l'imbarco è una delle peggiori. Perché? La coda dei passeggeri è sempre prolungata, la conquista del proprio posto, una battaglia, si sta lì per dei 40 minuti, anche su voli che poi magari durano altrettanto. E allora noi cosa abbiamo fatto per capire se non esiste davvero una soluzione a questo problema che sembra così semplice, abbiamo disturbato un astrofisico, sì proprio un astrofisico che lavora in Illinois, si chiama Jason Stephen, e gliel'abbiamo chiesto se esiste una formula per risolvere questo problema del trasporto, del movimento, del viaggio nel 2014. La mia ricerca si focalizza soprattutto sulla riduzione dei tempi di imbarco all'interno dell'aereo. Qual è il metodo più veloce perché i passeggeri lasciano liberi i corridoi in modo che tutti possano sedersi e l'aereo possa partire? Eh sì, ha fatto proprio una ricerca e tra poco vi proporremo anche i risultati. Torniamo in diretta tra un minuto.